Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. 7:47 minuti, 30 novembre, giovedì, la rubrica è in mostra, ma la Last Minute di oggi vede una realtà che di solito troviamo in scena. Sarà in scena, è un ritrovamento di cui ci parlerà nel dettaglio Alessandro Amato di Agora. Voci dalla storia, una valigia contenente 33 audiocassette con le voci e le interviste ad oltre 50 sopravvissuti ai campi di concentramento. È un progetto d'insieme che restituisce un racconto individuale e collettivo attraverso i linguaggi dell'arte performativa. Gli ultimi testimoni dell'Olocausto sta scomparendo anche una memoria che non deve mai scomparire ed essere labile. Chi tramanderà la memoria di quanto accaduto nei campi di sterminio quando le loro voci si saranno spenti? Come elaborare e restituire, dare vita ad archivi e testimonianze? A partire dalla riapertura di una valigia contenente 33 audiocassette, veri e propri reperti con le registrazioni delle interviste ed altre 50 deportati politici sopravvissuti ai campi di concentramento. Associazione Liberty ha ideato il progetto e prodotto il progetto Voci dalla Storia. Allora, come tutto ciò ha avuto percorso, lo scopriremo con la voce di Alessandro Amato nella presentazione di ieri per quanto riguarda questi aspetti. Allora, si tratta di un progetto che sta curando Liberty dal 2019, ma che trae origine in un avvenimento molto molto più, si va molto più indietro. È un progetto di date, perché è un ritrovamento, una riapertura di una valigia contenente 34 audiocassette registrate nel 95 con le storie di deportati politici, e quindi andiamo ancora più indietro. Dopo più di 70 anni questa valigia è stata riaperta e quindi stiamo lavorando su queste storie raccolte da Fiorella Rodella, che nel 95 era una laureanda in psicologia e adesso è una psicologa che ha deciso giovanissima di girare l'Italia per raccogliere queste storie preziose ma durissime e fortissime. Sì, intense, aggiungerei anche, di difficoltà e allo stesso tempo di una memoria per mantenerla. Messaggio molto forte da non dimenticare, anzi da portare anche in scena. Verranno fatti poi appuntamenti, produzioni? Esatto, l'idea è questo progetto appunto è partito da queste cassette ed è stato subito un progetto corale, perché le cassette sono state messe in sicurezza grazie anche al lavoro dell'Unione Reno Galliera, dei comuni del Casone del Partigiano, che sono altri a 4 comuni, da Baricella, Malalbergo, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, in collaborazione anche con ANED, Fondazione Gramsci. Quindi il processo è partito nel 19 con la salvaguardia delle cassette, quindi la registrazione e altro, e l'idea è che appunto sia una responsabilità collettiva. Adesso partiremo con alcuni eventi performativi, primo con i meno 20, che sarà il 9 dicembre, e poi un altro evento performativo con la coreografa Paola Bianchi. E per quanto riguarda il concreto di questo ritrovamento, sono cassette, audiocassette come le intendo io, quelle che quando avevo 14 anni registravo dalla radio, le C60, le C90? Esatto, sono delle cassette da 90 minuti che venivano registrate con un normalissimo registratore. Appunto Fiorella non era un tecnico, quindi era proprio un registratore. La cosa forte di queste cassette appunto è anche il fatto che ci siano delle mancanze. All'improvviso le cassette si interrompono, a volte magari Fiorella non girava la cassetta perché era ovviamente immersa nel racconto. E questo però ci pone di fronte a una questione: dire questi vuoti, ovviamente non possiamo dare la responsabilità a Fiorella del fatto che ci sia il vuoto, ma diventa un vuoto che dobbiamo colmare collettivamente. Thank you. ascoltato due saxofonisti a commento di questa intervista della F Label Bleu, l'etichetta francese che ha dato al jazz, al modern jazz, alle sonorità contemporanee grande lustro. Julien Leroux e David Krakauer, siamo partiti da Julien Leroux che stiamo ascoltando da questo disco The Rise. Quindi dal comunicato 33 audiocassette, 34 insomma è il contenuto che è prezioso e potente da queste audiocassette, C90 come avete sentito anche intensa la modalità di registrazione in quanto immersa la studiosa Claudia Rodella, Fiorella Claudia Rodella, l'ho detto così per intero, allora giovanissima ha portato questa idea per una tesi, per una ricerca di contattare questi sopravvissuti, ultimi testimoni deportati nei campi di concentramento con una testimonianza veramente forte. Da questo appunto dicevo della modalità, la cassetta che si interrompe, che ha un'immagine che può essere anche in parallelo con quello che è una nostra memoria che non dobbiamo assolutamente interrompere. Infatti grazie per l'idea, anche la proposta Agora Liberty, Alessandro Amato, che porterà poi con diversi motivi di divulgazione e progetti d'arte con questi contenuti, con queste voci, voci dalla storia. In un momento di scomparsa dei testimoni, perché ormai sono rimasti pochissimi, soprattutto i deportati politici, qui parliamo di deportati politici, che quindi erano stati catturati in età quasi adulta, 18 anni, hanno intorno ai 18 anni e quindi loro stanno scomparendo. Come la cassetta è degradata, come ci sono quei vuoti, e la memoria lasciamo che si degradi allo stesso modo, diciamo che apre tante riflessioni. Il trasporto è proprio quello lì, dell'audiocassetta che tutti abbiamo maneggiato e che adesso sono scomparse, ma anche lì ho un ricordo. Tutto in precedenza che sono state ritrovate da? In realtà Fiorella le ha sempre custodite. Le cassette sono state chiuse in una valigia perché era stato un lavoro lungo e molto molto faticoso ovviamente raccogliere queste storie, e quindi Fiorella le ha sempre tenute con cura, le ha portate di casa in casa nei vari traslochi, ha deciso di riaprirle dopo appunto 25 anni nel momento in cui appunto era da un po' che sentiva questo richiamo ed ha ricevuto un invito dal figlio di Atos Minarelli, uno degli intervistati, che ha ritrovato la lettera di ringraziamento di Fiorella. Quindi il figlio di Atos Minarelli ha scoperto l'esistenza di queste cassette, ha invitato Fiorella, ha trovato questo ringraziamento senza il dettaglio di cosa fosse, e quindi da lì Fiorella, grazie appunto all'Unione Galleria, era Giorgia Govoni e poi Elena Di Gioia che dirigeva l'esercito metropolitano e dirigeva sì. Liberty, insomma ha deciso di riaprire questa valigia con contenente le cassette. Beh, stiamo in contatto anche per parlare delle emozioni di riaprire la valigia. Certo, certo, certo. No, infatti l'idea è appunto di provare a lavorare con tanti artisti, quindi il progetto continuerà negli anni. Quest'anno abbiamo avuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna e speriamo di, tramite la legge proprio della memoria del Novecento, la legge 3, speriamo che questa il sostegno insomma possa continuare anche nei prossimi anni per appunto tramite gli artisti andare a sublimare quelli che sono i racconti, a riempire i vuoti, a riflettere su che cosa significa la presenza, avere dei corpi, come gli artisti hanno i corpi in scena nel momento in cui scompaiono i testimoni, come si fa a riportare in vita una testimonianza. Oltre che ovviamente a essertene grato per questa disponibilità nella conversazione che stiamo tenendo, io ti auguro buon lavoro perché ce n'è tanto. Grazie, ce n'è tanto, ma siamo in tanti e la lista è lunga, quindi abbiamo anche creato un sito vocidallastoria.it dove appunto sono raccolti tutti i partner, tutti gli incontri, gli appuntamenti che sono veramente tantissimi e speriamo che continuino per un bel po'. Grazie. Grazie a te. David Krakauer. Il klezmer ha contribuito, come tante altre sonorità, alla nascita del jazz. A New Hot One, il disco per la Blblé, il brano che vi sto portando e che ci accompagnerà alla pubblicità, Klet Drix, David Krakauer qui al clarinetto, grande musicista, 8:01, voci dalla storia, grazie Alessandro Amato, Liberty Agorà che seguiamo sul palcoscenico. Questo è un inizio di percorso che ovviamente verrà riportato al venerdì in scena su Radio Città Fujiko. Un po' di musica, pubblicità e poi in mostra a Palazzo Te Rubens. Faremo accenno anche all'esposizione appena aperta a Galleria Borghese dedicata al grandissimo Fiammingo. A tra poco.